Otra casa di vino, che voto ma vino se, se, che voto ma vino se, se. La Donata. E che non se palma se la come doblata, e che non se palma se la come doblata. Thank you.